RadioTube Social Network. Ed eccoci pronti alla seconda ora di RadioTube, tutta l'attualità della rete, dalla rete, una settimana di tutto il mondo che è passato attraverso i video più visti, i social network, i trending topic, tanti temi molto seri, anche se cominceremo prima con un po' di leggerezza e poi andremo nelle cosiddette hard news. Molto contenta di avere uno dei più bravi conduttori di Radio 24 accanto a me, Dario Ricci. Troppo buona. Che bello venerdì sera. Però insomma mi fa piacere di beneficiarne, insomma. Intanto grazie dell'invito, sempre un piacere ritrovarti. Bei tempi quando si faceva le sbornie del venerdì sera. Noi stiamo a casa il venerdì sera, infatti, a parte il fatto che ultimamente io non sono ancora una tanto da fase 3, io sono una che sta sta ancora 1 e 3 quarti. Sì, ho deciso che l'unica cosa che faccio, mi concedo qualche caffè fuori, perché è la mia fase 2, è il caffè. È un avvicinamento alla socialità. È giusto. Molti l'hanno anche detto, dice, immaginate di esservi rotti un piede, non possiamo ricominciare a correre subito, piano piano ci si deve riabituare. Infatti, no? io comincio col caffè, poi vedremo. Ottimo inizio. Anche perché ogni volta che leggo, io ho la mia campagna personale, che ogni volta che leggo Movida mi sento male, ma non l'abbiamo mai chiamata Movida. Perché Movida? Che... Vabbè, insomma. È vero, di solito anzi è anche un pochino più tranquilla, cioè la birretta in strada. La birretta, no? Movida, che facciamo? Vabbè. Dario, secondo me il video più condiviso sui social, infatti anche se si guardano le varie classifiche dei più visti, questo è uno veramente dei più visti della settimana, è questo qui. Ti devi mettere la mascherina. Ma vattene tu. Sopra la telefono. Non me ne frega un c***o che stai parlando al telefono, e da quando siamo partiti che stai facendo come c***o ti pare, ci sono delle regole. Mettiti la mascherina. Allora, a parte il fatto che adoro questi beep sulla prima sillaba, ma si capisce bene la seconda. Di solito si servono a quelle beep per far capire meglio la seconda sillaba. Certo, insomma, per capirla bene. Signora che litiga con il vicino di treno che non ha la mascherina, e i toni poi diventano sempre più accesi. Tra l'altro nel frattempo è anche venuto fuori un secondo video. Allora, cosa devo dire? Siamo un po' nervosi. Beh, direi di sì, siamo un po' nervosi, però si riflette tanto su questi aspetti, perché poi questo è il video manifesto di questo problema, ma poi c'è sempre quello al bar che ti si avvicina, quello che ti vuole riabbracciare, quello che... A parte che devo dire, un punto da chiarire è che in alcune società, in altre culture, quindi è bene anche essere aperti da questo punto di vista, so che tu sei anche una grande appassionata della cultura, ad esempio, giapponese, quel metro di distanza è un segno anche di rispetto. Certo. Quindi, insomma, non è che è necessariamente vissuto come un distacco emotivo, anzi, è prendiamoci questo metro per poi piano piano accorciarlo e diminuirlo. Quindi vediamolo anche come un metro di distanza di rispetto reciproco. Io credo che la signora però non volesse poi avvicinarsi. Io devo dire che poi ho letto tantissimi commenti. E da un certo punto di vista ci sono quelli che dicono lei passa dalla parte del torto, perché poi la lite assume toni. Altri dicono la signora doveva farsi i fatti suoi. Questo. Altri invece sono molto critici nei confronti di lui, del che tipo, non usa la mascherina. Certo. Io devo dire che mi sarei arrabbiata, magari non in quel modo lì. Però dai, in treno... Io sono d'accordo con te, devo dirti, non riesco a farti da contraltare, perché ho visto, sto sperimentando che alcuni atteggiamenti troppo aperti, no, in questa fase mettono in imbarazzo e in difficoltà chi invece è ancora un pochino più sulle difensive. Allora devo dire che le norme che ci sono state date non mi sembrano impossibili da rispettare, perché sono una mascherina quando in certe situazioni, il lavarsi molto spesso le mani e il mantenere appunto questo metro di distanza. Mi sembra abbastanza facile farlo, quindi non capisco perché ci sia qualcuno che necessariamente deve violarle. Pur venendo in metro oggi, prendendo la metropolitana, qua a Milano sappiamo che c'è l'obbligo dei guanti e della mascherina. Ecco, già i guanti si sono volatilizzati, di 10 persone ce l'avevamo in 3. Perché? Perché non capisco perché siamo così refrattari a queste cose che sono veramente minime effettivamente, no? Insomma, ne parlavo oggi con una mia amica. la ginnastica che noi abbiamo fatto in casa su un tappetino per un mese, sacrificati. Nelson Mandela l'ha fatto per 23 anni in carcere, È insomma, vero, è quindi vero, no, è vero, dico tutto poi arrivano, sommato. ed è arrivato anche al 3492386666 il WhatsApp, che secondo uno studio medico del dottor Pinco Pallo la mascherina fa male. No, no, Insomma, adesso no, se i medici la portano, abbiamo visto sarà quanto. no. Quanto sia difficile anche per gli esperti decodificare i comportamenti di questo virus e tutto, ma veramente quello che ci ha chiesto è poco. Io onestamente faccio fatica a viverlo come un grandissimo sacrificio. È una No, no, forma di infatti. rispetto reciproco. Facciamo i bravi. I numeri, tra l'altro, ci stanno anche venendo incontro perché sembra che certi comportamenti ci stiano premiando sotto il profilo delle cifre e soprattutto è un fatto psicologico. Ho detto così, mettiamo in difficoltà chi ancora è un pochino nel bunker, no? Invece invitiamolo ad uscire rispettando le regole e poi piano piano ci troveremo a lasciarle un po' ste mascherine, però diamogli almeno l'occasione di uscire un po' fuori dal Certo, poi guscio. c'è qualcuno adesso che scrive, ma l'OMS aveva detto che le mascherine... Sì, però poi l'OMS ha cambiato idea, quindi Adesso poi non è che è anche... l'oracolo di Delfi, nel senso che loro Sì, hanno no, individuato anche delle perché poi linee abbiamo guida. capito che effettivamente tutti con questo virus hanno dovuto prendere le misure giorno per giorno, Esattamente, anche gli esattamente. scienziati. Sì. Ma parliamo un po' di calcio, Dario. Speriamo, Dice, ma hai speriamo. chiamato, ma vuoi fare... Si ricomincia allora? Sì, si ricomincia, direi finalmente. Qualcuno già ha ricominciato, no? Lo sentiamo anche dai nostri notiziari, la Germania, che è stato paese guida, ricomincerà anche l'Inghilterra. Ricominciamo anche noi il 12 e il 13 giugno con le semifinali di Coppa Italia, poi dal 20 il campionato, la stagione concentratissima. Ecco, è chiaro che il calcio che vedremo, anzi, già come abbiamo sentito, si parla di riportare progressivamente un po' di tifosi negli stadi, no? Il calcio che vedremo è molto diverso da quello che abbiamo lasciato, però Che le regole sono beh, diverse. qualcosina sì, perché per esempio ci saranno 5 sostituzioni. Io non ho capito perché c'è questa regola nuova. Diciamo per far fronte al fatto che si giocherà molto di più in estate, per quanto la sera, quindi in condizioni ambientali sicuramente più difficili, dopo una pausa così lunga inedita nella storia muscolare dei campioni e quindi e soprattutto in un periodo così concentrato, perché praticamente si giocherà, ogni squadra giocherà ogni 3 giorni. Sui social ci sono stati un po' di dibattiti Sì. su questa regola, perché qualcuno ha scritto, ma non si può cominciare un campionato con delle regole e finirlo con delle altre. È vero, però ragazzi, è pure antipatico iniziarlo senza una pandemia e trovarci una pandemia in In mezzo, effetti è no? un dettaglio. No, è un po'. Tante volte uno in punta di regolamento si dimentica quello che è successo. Diciamo, l'importante è che vedere il pallone, essere un pochino più rilassati vedendo questo pallone roteare. Poi. Hai detto una frase importante, hai detto il pubblico negli stadi. C'è stato un esperimento questa settimana in Danimarca. Vi facciamo sentire l'audio. Ecco l'audio di una partita che sembra, a sentirla sembra abbastanza normale. Sentiamo. Ci sono i cori, ci sono i Sì, giocatori. tutto regolare. Tutto regolare, ma questa è la radio. E invece questo è un video che l'abbiamo trovato su tutti i quotidiani online questa settimana. Aarhus, Danimarca, le squadre stanno giocando, il pubblico però non è nello stadio, è collegato via Zoom. Cioè i calciatori hanno attorno a loro un sacco di schermi, quindi vedono i fan che da casa loro Fanno il fanno il tifo. tifo. Allora, secondo me questi effetti di coro sono un po' Sì, aiutati, se perché non hanno un po'. effettivamente anche sti poveri giocatori giocare in silenzio. Beh, sai, ci sono stati fior di campioni che stanno anche ragionando. C'è stata una bellissima intervista recentemente di Jorge Valdano, il grande ex del Real Madrid, campione del mondo con la nazionale argentina, che ha provato un po' a capire quale sarà l'effetto di questo vuoto assordante sui campioni, perché il grande campione vive anche del proprio edonismo, no? Ronaldo è Ronaldo perché ci sono 80.000, può fare quelle cose davanti a 80.000 sì, persone. Devo dire che poi infatti anche nella pandemia si sono fatti tutti gli Instagram, le stories, le cose, però mentre si allenavano, mentre facevano i figli. Ci sono anche quei giocatori che da questo vuoto cosmico trarranno dei benefici, quelli un po' più timidi, perché magari sono bravissimi qua, nel campo d'allenamento quando non c'è nessuno e sentono molto l'impatto della folla. Posso dire che c'è già un romanzo, il calciatore timido. Calciatore timido che finalmente senza pubblico il calciatore da stadio vuoto. Per esempio c'è André Silva dell'Eintracht Francoforte, ex del Milan, che in questo calcio senza tifosi si è riscoperto grandissimo goleador, lui che invece sentiva molto la pressione di San Siro, quindi la testa fa tutto. Ma secondo te questo calcio, come in questo video con gli spettatori virtuali, vabbè, questa è ovvio che non si potrà fare, è forse un video più divertente che altro, sì, sì. Però l'unica in realtà dal vivo ben poco si può fare per sostituire la presenza fisica, fortunatamente, no? Nel senso che poi quello rimane come nel concerto, abbiamo visto, cioè, tante idee carine dal drive-in per vedere, però insomma sono spettacoli che hanno bisogno di una loro fisicità, no? Il bello del concerto è che ti butti vicino al tuo vicino, magari la tua vicina nasce. Entrare al concerto con questa favola che qualcosa può accadere è già parte dello spettacolo e del motivo per cui ci vai, no? Altra cosa è vedersi da macchina a macchina, insomma. Cioè. Però sai cosa ti dico? Che è una cosa che a me piace molto d'estate. Mi piace sentire, e questa è una mia confessione, il rumore dei televisori che ascolta le partite, il rumore delle partite dalle finestre aperte d'estate. Quello è bellissimo. A me piace quello tantissimo. È bellissimo, estati, anche questa avrebbe dovuto essere un'estate magica tra europei, olimpiadi, no? Però sì, notti è vero, magiche. Infatti, perché è anche un modo attraverso cui entri nell'intimità dell'altro e l'altro accetta di condividerla, no? Perché insomma, abbiamo fotografie nella memoria indimenticabili di canottiere bagnate dallo spumante per coppe campioni o mondiali, insomma, sì, è difficile. Bella la canottiera bagnata dallo spumante. Allora, diamo con un pochino di ritardo la linea alla viabilità, ma mi piaceva questa cosa del calcio, perché in effetti i video li abbiamo visti in questo periodo, chissà come sarà questo calcio senza spettatori reali. Viabilità, e poi saremo ancora insieme con un sacco di argomenti per il nostro RadioTube. RadioTube Social Network. Però ragazzi, non mandatemi al 349-238-6666 le parolacce che la signora del treno ha detto, perché io poi li leggo, mi confondo e li leggo in diretta, ragazzi, non si possono. Quando la signora gli urla, raggiungiamo il top del top, e non lo posso dire, effettivamente la signora del video del treno ne ha dette di tutti i colori. In realtà il video calcistico più condiviso in questo periodo è un video che non vi posso far sentire perché è quasi muto, il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, che ha fatto un gol pazzesco in una storia di Instagram. Cioè praticamente hanno fatto questa storia di Instagram con il sondaggio: ma secondo voi chi ha segnato questo gol? E tutti pensavano il grande goleador. Ma il presidente che ha fatto un gol. Ma è tutto vero. Tu che c'hai l'occhio critico e anche allenato. Pare di sì. Ma a me sembra... pare di sì. Sì, sì. Sì, perché vedendolo, dice in realtà, a me mi sembra vero. Però se da presidente lui può andare al campo e può allenarsi pure di notte, no? Cioè, quindi, hai ragione. Vabbè, magari uno diventa anche presidente apposta. Capito, un caso di overtraining, però poi i risultati poi si vedono. Sì, su Instagram fai il bot. Approfittando che poi quelli veri, i calciatori veri, non si sono potuti allenare. Magari lui... Capito, secondo me ci potrebbe essere anche questa chiave, questo intrigo. Altro che il complottismo sulle mascherine, che arrivano certi messaggi. Invece dell'effetto del pallone è una scia chimica che la... vedi. Un filtro. Allora, e adesso ti faccio sentire invece una story di Instagram, un messaggio che ha fatto un'attrice che a me piace molto, ma questa volta sono un po' perplessa. Kasia Smutniak, che ha lanciato, tra virgolette, un suo filtro per le stories di Instagram. Sapete, no? Questi filtri che ti modificano le fattezze, ti rendono più bello, più brutto, con la faccia di un altro, con qualsiasi modo. E lei ha lanciato questo. Ciao a tutti. Scusate, ciao a tutti, è proprio una pessima idea. Sono qua per dirvi che da questo momento è disponibile sul mio profilo un filtro che si chiama Beautiligo. L'ho creato perché volevo in qualche modo celebrare la bellezza della diversità. Potete scaricarvelo lì oppure cliccando direttamente sul link qua sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, sono un po' combattuta perché io sono convintissima della necessità di mostrare la bellezza della diversità. Su questo sono proprio convintissima. Che però una donna molto bella faccia il filtro vitiligine per dire supporto la causa, non lo so perché. È come se io dicessi, voglio supportare, e tra poco ne parleremo molto, il Black Lives Matter con un filtro che mi scurisce la pelle. Questa cosa è una cosa gravissima, che si chiama blackface, che è giustamente condannata dalla società perché, peraltro, ci riporta a un passato in cui performer bianchi si dipingevano di nero per assomigliare, insomma, è una lunga E poi storia di cose che non si tra possono l'altro anni fare. 50, anni 60, anche nella comunità afroamericana c'era questo dibattito su quei neri che invece volevano sempre più assomigliare ai bianchi, stirandosi i capelli con creme particolari per schiarirsi. Beh, poi insomma il prodotto Michael Jackson è Certo. stato l'abisso di quella cosa. Beh, sicuramente sì, anch'io Io condivido le sono un po' tue. perplessa. Credo che a volte scappi un po' la frizione in questa ricerca dei like o del cuoricino, no? E lì, come si dice, nessuno te lo può insegnare qual è la misura. Non lo so, sono un po' perplessa. Molte attrici hanno fatto anche loro la foto con questo filtro. Però, per dire, facciamo un esempio più banale. Voglio, tu, sì, la bellezza e la diversità, è bello anche avere il naso verde. Che ne so, no, Sì. naso verde. E allora io, che sono un'attrice bellissima, mi faccio il filtro col naso verde. Ma una col naso verde dice: scusa, grazie al cavolo, tu sei un'attrice bellissima. Certo, Cioè, è lasciata a me facile è metterci il facile. filtro. Allora, però, sono io che ho il naso verde. Sì, è vero, è Non lo vero. so, non lo so. No, no, Vai, l'altro detto, secondo me cioè, a volte si perde di vista il quadro generale, si guarda solo il cuoricino e si contano solo gli i like e non può essere quello l'unico bilancio della cosa, no? sì, non lo so. Io lascio il giudizio sospeso. Però a me non è che proprio mi è piaciuto Lasciamola in tantissimo. panchina, cacciata in Lasciamo panchina. in. Ci abbiamo Lascia. 5 sostituzioni, se proprio ci serve la facciamo entrare. Sì, bravo, bravo, mi piace questa cosa calcistica. Tra l'altro, cara Anna, ti devo bacchettare, cara Anna, che mi scrivi al 349-238-6666, segnalandomi la canzone più recente del bravo cantautore Pier Davide Carone, perché Pier Davide Carone è stato nostro ospite proprio oggi alle 16, quindi Anna, ti sei dove collegato. stavi alle 16 che non potevi stare al cinema, ancora non so perché. Dov'eri? Dov'eri? Che non sapevi che Però c'era? c'è il podcast. C'è il podcast, Oh, il sito quindi di si Radio può. Ecco. 24, eccetera, eccetera, Puoi eccetera, eccetera. riparare le tue Ecco, colpe, fai i Anna. compiti, Anna, da brava fan di Pier Davide Carone. Un altro video che in queste ore è stato condiviso tantissimo ed è sulle homepage di tantissimi giornali online, è questo che viene da Tacoma. Allora, è un altro video che è stato diffuso qualche ora fa negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. Questo è il video girato da una donna durante il fermo della polizia di Manuel Ellis, nero americano, Manuel Ellis, che perde la vita proprio in quella circostanza. È successo a marzo, questo video è stato rilanciato in queste ore. Devo dire, è ancora più evidente la potenza di questi video che ormai ci portano dentro realtà che prima potevamo ignorare, far finta di ignorare, ignorare in buona fede, non conoscere perché erano da un'altra parte del globo. Questi video sono davvero scioccanti e ci tirano fuori delle verità incontrovertibili. Sì, direi che lo scarto in questa lunga scia di questi episodi è stato nel 1991, se non sbaglio, le violenze perpetrate ai danni di Rodney King, no? Che poi generarono proteste e violenze. Perché? Perché quello forse a memoria fu il primo caso in cui queste violenze vennero riprese da delle telecamere, no? Se non sbaglio, delle telecamere di servizio che poi da cui poi venne tratto il video che venne diffuso. Ecco, quindi una sorta di appunto video da YouTuber ante litteram, ma oggi appunto questi occhi rendono, come hai detto bene te, incontrovertibili queste testimonianze e gli effetti poi sono sotto gli occhi di tutti. E non c'è più il dibattito, c'è la prova. E le conseguenze sono queste, unite poi a diversi fattori sociali, tra l'altro ne parleremo anche domani, Marta, alle 16:30 in Olimpia, analizzando un po' l'attitudine e la storia dei campioni afroamericani dello sport a stelle e strisce rispetto a questa tematica. Ma è chiaro quello che dici te, oggi abbiamo degli occhi neutri e relativamente oggettivi, perché Almeno, sappiamo allora, il che però le dibattito si può immagini, fare dopo, ma le le immagini immagini ci sono. Le esattamente, immagini ci sono. quel ginocchio Le c'è, immagini ci e sono. fortissimo è stato LeBron James, associando la settimana scorsa sul suo profilo Twitter quel ginocchio sul collo di George Floyd all'altro ginocchio, quello di Colin Kaepernick, poggiato in terra. 4 anni fa il quarterback dei San Francisco 49ers iniziò a inginocchiarsi durante l'esecuzione dell'inno statunitense negli stadi. Ecco, LeBron col suo mettendo semplicemente vicino le due fotografie ha detto: ecco perché Kaepernick si è inginocchiato, perché quella è una tecnica abitualmente utilizzata che ha quelle conseguenze. Dice: oggi capiamo. E oggi Kaepernick non gioca più perché di fatto c'è stata una causa che ha vinto, perché c'è stato un cartello da parte dei proprietari dell'NFL per escluderlo, di fatto, dalla Lega Professionistica Americana, e oggi è uno dei volti di questa protesta, legando il suo nome anche alla Nike. Che è stato il brand che ha continuato a sostenere le sue Sì, campagne. sì, sì. Cambiamo sport, ma rimaniamo sempre in questo mondo perché, sempre sui social, questa settimana è intervenuto Dennis Rodman. Hey guys, why are we looting? Why are we stealing? Why are we creating more issues, more problems, stuff like that? Let's get to the head of what's really going on. Perché It's a saccheggiamo? Perché bad ci diamo alle situation. violenze? Lui ha fatto sui social, Dennis Rodman, grande ex cestista, un appello diretto ai manifestanti a rimanere dalla parte della ragione, a non Nella andare nella legalità. parte del torto. Ma guarda, devo dire che questi appelli sono ragionevoli e fotografano una realtà molto dinamica, molto complessa. Beh, pensa che sto finendo una monumentale biografia di Muhammad Ali, che tra l'altro, se permetti, la suggerisco, è pure editata da Sixteen and the Second, Muhammad Ali, La vita, e fotografa anche il terreno in cui nacquero quelle proteste, da Martin Luther King alla Nation of Islam, no? Con direzioni e obiettivi molto diversi, più dialoganti e più radicali l'uni rispetto agli altri, a fotografare appunto già negli anni 50 e 60 una realtà che certo non era omogenea e granitica. Stessa cosa qui, Rodman, ma poi anche Tiger Woods è stato oggetto sui social anche di attacchi violenti per la sua posizione di compromesso, no? Moderata, diciamo così, ma sono posizioni che ci stanno, è chiaro. Certe violenze poi danno il destro ad ulteriori violenze, ad ulteriori Mi è piaciuto strette. molto questo video di Dennis Rodman perché è molto serio, molto sul punto della situazione e lui ha anche una certa autorità morale, diciamo, è un Devo dirti personaggio. Insomma, se cerchi su Google Dennis Rodman, è stato protagonista anche di altre performance, Sì, che però diciamo. ne hanno aumentato la notorietà. Sì, Oltre diciamo ad che. essere stato anche il grande mediatore con regime nordcoreano, lui è stato in Nord Corea portando il basket e favorendo poi anche un disgelo tra Trump e la Nord Ragazzi, Corea. ma Dennis Rodman for President. Cosa ne pensa Michele Boroni? Ciao Michele, bentornato a Radio Tube. Ciao, buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Ciao Michele. Michele Boroni, espertissimo di marketing, di mille cose, adesso anche delle rubriche nuove, dopo ne parleremo. Testimonial importanti questi dello sport in questi giorni di manifestazioni Black Lives Matter. Sì, dello sport tantissimi e anche molto dello spettacolo, perché poi soprattutto teniamo anche conto che in America il tema della pandemia è ancora forte, quindi diciamo che ovviamente dopo l'omicidio di George Floyd, però insomma c'è sempre una tensione ancora più forte dovuta alle morti che sono ancora tante, e anche agli studios che non lavorano, ai concerti che sono bloccati, quindi cioè, siamo proprio in un clima incredibile, e quindi anche tutte le varie celebrity dello sport, del cinema, della musica, si sono ovviamente, hanno detto la loro e si sono schierati, evidentemente, come dire, come dire, a sostegno del movimento Black Lives Matter. Prima di lanciare la pausa, ti chiedo una cosa, Michele. Secondo te, che sei un esperto anche di testimonial, in questo un testimonial ha ancora una sua forza? Cioè, sentire da un personaggio importante un messaggio del genere sui social ha una sua rilevanza? Allora, sentirlo e basta, ti direi di no. Oggi, come dire, no, lo storytelling puro non ha più tanto valore. Alle dichiarazioni devono essere, come dire, legati anche delle azioni che possono essere come dire, sostenimento finanziario, ma anche proprio azioni, cioè scendere in piazza effettivamente, non soltanto dal proprio account Twitter, fare delle dichiarazioni. Quindi sì, secondo me è ancora importante, specialmente su certi testimonial che devono essere già credibili, devono avere Credibili. anche una storia, da quel punto di vista. Non è che il primo che fino a ieri parlava soltanto di moda e di, non lo so, e di droghe, ora si mette a parlare di diritti civili e diritti e contro il razzismo. Ecco. Allora, facciamo una brevissima pausa, poi rimaniamo su questo tema molto difficile di Black Lives Matter, ma anche di altri argomenti. Approfitto di avere al telefono Michele Boroni e accanto a me Dario Riccia, tra poco. Radio Tube Social Network. Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like where the bread. You go hold the egg, way to bring the check. When we talk, we collision call. Keep us in your thoughts, fully dressed at the crack of dawn. Weapons letting off, I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive, looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy. First of all, fuck the fucking law. Allora, questa è una segnalazione di Alessandro Schirano. Grazie Alessandro. I Run the Jewels, duo hip hop statunitense composto da ELP e Killer Mike, hanno deciso di supportare gli attivisti che stanno manifestando nelle principali città degli Stati Uniti, appunto, per chiedere giustizia per George Floyd. Cosa hanno fatto? Hanno pubblicato con 2 giorni d'anticipo rispetto alla data prevista, che era ieri, il loro nuovo album, Run the Jewels 4, e l'hanno reso disponibile sul proprio sito ufficiale gratuitamente, con la possibilità di effettuare donazioni per le organizzazioni che stanno supportando le proteste negli Stati Uniti. Ma c'è un'altra iniziativa interessante che volevo segnalare sempre nel mondo social, quella di Amira Zoe. Take your knee and privilege off my neck. time for this entitlement and injustice to get checked. Ho detto Amira Zoe, invece Zoe Amira. Video diventato famosissimo su YouTube in queste ore, perché cosa ha fatto? Un video per aiutare i movimenti che stanno difendendo i manifestanti senza spendere una lira. Cioè, lei dice: se volete contribuire alla causa ma non avete soldi, basta che guardiate questo video, che in questo momento ha 8.711.000 visualizzazioni ed è stato pubblicato il 30 maggio, perché lei ha detto: donerò tutti i profitti a queste campagne. Sono tutti video realizzati da artisti neri. Questo video dura 45 minuti, dentro c'è ovviamente un sacco di pubblicità, perché guardando tutti questi spot generano molte cosiddette revenues, soldini che poi lei devolverà. Sempre come co-conduttore d'eccezione Dario Ricci. Bello avere Dario Ricci e collegato con noi Michele Boroni. Ciao Michele. Eccomi. Non è male questa iniziativa, soprattutto per l'idea del volete contribuire anche se non avete soldi, perché di solito si dice donate, e in questo momento in cui magari molti hanno donato per il coronavirus, donato per un'altra cosa, che dire, è forse la prima volta che sento una cosa del genere da parte di una YouTuber. Sì, credo anch'io, è quello che dicevo prima, no? Cioè, come oggi le dichiarazioni devono fare spazio a delle azioni, e grazie ai social, appunto, anche queste scelte, come nel caso di Randy Jewels, delle scelte artistiche diventano dei veri e propri atti politici. Quindi da questo punto di vista i social, la rete permettono veramente di fare qualsiasi cosa, basta avere la voglia e la creatività. Tra l'altro, in questo periodo Instagram, Dario, non so se hai notato, in molti hanno postato su Instagram una foto nera, un quadrato nero, anche tanti campioni dello sport. Michele, questa è stata un'iniziativa che ha colpito molto. Sì, è avvenuta precisamente martedì 2 giugno, chiamata appunto Blackout Tuesday. In realtà l'iniziativa nasce proprio dal mondo della musica, è nata da due donne che lavorano nel mondo del marketing musicale, ovviamente legato ai fatti di Minneapolis, sotto l'hashtag iniziale che doveva essere The Show Must Be Paused, come per dire, certo, lo spettacolo si deve fermare per un attimo, ed era una protesta diretta principalmente all'industria musicale, che negli ultimi anni, diciamo, ha attratto principale profitto da artisti afroamericani. Basta vedere la classifica Billboard, nella top 10 almeno 7-8 artisti sono afroamericani, quindi certo, a maggior ragione l'industria musicale doveva in qualche modo prendere una posizione, o quantomeno un momento di pausa, di riflessione. E dietro questo tipo di iniziativa hanno seguito, diciamo, tutte le varie major discografiche e anche una serie di artisti, Rihanna, i Rolling Stone, Yoko Ono, eccetera, mettendo appunto, cambiando l'hashtag in Blackout Tuesday. Cosa è successo però? Ovviamente le persone vedevano questo nella loro timeline, tutte queste macchie nere, e quindi anche semplici, diciamo, utenti di Instagram hanno iniziato a retweetare, insomma, a postare anche loro questo tipo di macchia nera, però mettendo come hashtag l'hashtag, diciamo, Black Lives Matter. In questo, quindi, cosa è successo? È successo che andavano a interrompere quello che era il flusso informativo legato al movimento. Certo. E quindi molti hanno detto: no, ma qui forse allora c'è la mano di qualcun altro che vuole sabotare, che vuole oscurare da tutti i punti di vista. E quindi dietro questo misunderstanding c'è stata un po' di tensione social. Quindi sì, è vero, anche io quando ho visto la macchia nera, sì, ho pensato a un qualche errore, qualcosa che non funzionasse, cioè, perché poi devi andare, certo, sulla destra e decodificarlo, no? Però preso nella velocità chiaramente del social, diciamo, in questo senso forse non è stata la cosa più riuscita, ecco. Sì, certo, diciamo che era, non era immediata, quando, era quando immediata, poi me l'hanno spiegata, sì, l'ho capita, sì, ecco. Cioè. Certo. Allora, ragazzi, sì, dimmi, dimmi, Michele. No, no, dicevo, però questo in qualche modo ha, come dire, ha affermato Instagram come non solo un social, diciamo, frivolo, legato soltanto all'immagine, ma anche legato a dei contenuti in qualche modo, perché oggi i messaggi di Black Lives Matter sono ovviamente su Twitter, sugli altri social, ma anche e soprattutto su Instagram. Instagram, che poi era tradizionalmente il social della leggerezza, delle celebrities che si facevano pagare per indossare la qualunque. Abbiamo già parlato della crisi in tempi di Covid. Adesso non so se, Dario, tu segui qualche, non so, moglie di calciatore su Instagram. Beh, indirettamente mi arrivano. Poi... Ma che poi non diciamo che pure i calciatori sono A, vanesi, B, influencer, assolutamente, cioè, adesso di cosa diciamo, smutandati, ecco, fine, insomma, sì, sì, griffatissimi, chissà quanto costa farsi fare una roba sponsorizzata su Instagram dai calciatori. Però vorrei, adesso diamo la viabilità, perché io approfitterei del fatto di avere con noi Michele Boroni, che adesso fa anche il critico pubblicitario, finalmente una rubrica di critica pubblicitaria, poi adesso ne parliamo dopo la pausa per la viabilità, perché vorrei parlare della fase 3 della pubblicità, o fase 2, non so in che fase siamo, vabbè, ne parliamo tra pochissimo. Radio Tube Social Network. Allora, qualche giorno fa leggevo su Facebook, che come sapete non uso, non chiedetemi le amicizie su Facebook perché io non lo uso attivamente, io lo uso solo per leggere quello che scrivono i miei amici, sono più tipo una spia, no, nel senso che io proprio per scelta di ottimizzazione di tempi e di risorse umane, intendendo solo la mia, risorse donnesche, solo Instagram e solo Twitter, però comunque Facebook lo uso per leggere gli amici. Leggevo un amico che non si occupa di comunicazione, non si occupa di pubblicità, che diceva ma che noia queste pubblicità tutte con ripartiamo, facciamo, perché la forza, il coraggio, le bandierine italiane. Dario, tu che appunto sei al di sopra di ogni sospetto perché sei un giornalista sportivo, hai notato anche tu, cioè, questa cosa, questa retorica che ci ha accompagnato per un po' nelle pubblicità? Assolutamente sì, c'è inevitabilmente un po' di ridondanza, anche perché è stato questo un periodo in cui ci siamo fossilizzati per ore davanti al piccolo, al grande schermo, no? Quindi chi non era abituato, come magari noi, bello, perché piccolo e grande non significa più TV e cinema, infatti, ma telefonino e massimo TV, sì. Però insomma, noi lo facciamo di mestiere, ma in tanti si sono visti 10 edizioni dei vari TG di seguito, sì. E quindi puoi immaginare l'effetto devastante, insomma, sulla, sì, psico umana. Quindi mettici in più l'enfasi nostra italiana, che ci sta, quindi è stato un fuorilegge di tricolori e di cose, sì. Ci può stare, però poi adesso però anche allora, un filo meno, cioè, insomma, adesso qualcuno ha cominciato a cambiare un po' rotta. Io ho tolto la marca, però diciamo che è una marca che fa delle merendine, il nome fa due parole, parole, e la seconda è un colore che non è nero. Vabbè, insomma, dai, vabbè, insomma, eccolo qua. A Sara piace cercare cognomi strani sul citofono e ascoltare le rane nella pancia del papà mentre dorme. A Sara piace guardare le pozzanghere per vedere quanto sono profonde e affondare i polpastrelli nel suo cuor di pane prima di mangiarlo. A Filippo piace il suono della velocità, camminare solo sulle mattonelle bianche e dare una forma alle nuvole. A Filippo piace anche dividere il suo flauto con Laura e guardarla mentre mangia. Allora, Michele Boroni, che ha cominciato una rubrica sull'inchiesta come critico pubblicitario. Mi piace da morire, da grande voglio fare anche il critico pubblicitario. Michele, non posso essere brava come te, che tu sei proprio, però che meraviglia questa. Ho detto che meraviglia, un euro, devo dare un euro al salvadanaio. Sai Dario che devo... sei imposta. Sì, perché quando dico che meraviglia, la sua frase. Sì, quando dico che meraviglia devo mettere un euro nel salvadanaio. Poi lo deciderai se lo devolverai alla ripartenza o ai diritti civili, però insomma. Sì, sì, ci sono colleghi di Radio 24 che invece sostengono che debbano essere loro a dover riceverli, non diciamo chi. Michele, sta cambiando qualcosa nella pubblicità? Ma sì, per fortuna sì, da un punto di vista, ne avevamo parlato anche un mesetto fa proprio ai microfoni di Radio Tube, che evidentemente c'erano anche dei problemi di produzione, cioè fino a un mese fa, tre settimane fa, non si potevano produrre degli spot, e quindi inevitabilmente si andavano a prendere dei filmati di repertorio, si andavano a prendere si facevano tutte le cose in casa con la ripresa tipo Zoom, eccetera, che un po' ovviamente sì, c'erano tutte le pubblicità in videoconferenza, c'è sì. Stato qualche spot fatto tipo come Titanic con i finti attori, cioè ci siamo arrivati o so, è stato Se, è bastato secondo me i finti attori nella... In America sì, in Italia no. Infatti no, mi in chiedevo, dico, invece no, noi siamo rimasti sull'umano, però... Siamo rimasti, diciamo, sul terreno e sul valoriale, diciamo, e quindi appunto, come dicevate prima, io resto a casa, andrà tutto bene, tutti i vari messaggi di resilienza, i grazie a tutti, ai dipendenti, ai clienti, agli infermieri, giustamente, eccetera, però appunto ora si parla di ripartenza e si cerca, almeno i marchi, diciamo, quelli che hanno voglia di comunicare qualcosa di nuovo, lo vogliono fare anche non per forza di cose mostrando le mascherine o il distanziamento sociale, insomma cercando di la pubblicità è anche un po', come dire, un po' il sogno, no? Anche un po' dei consumi che servono un po' a riportare in una dimensione un po' diversa, no? Migliore, tutti noi e le famiglie. E questa pubblicità, secondo me, che abbiamo sentito prima, risponde abbastanza bene a tutto, anche perché in qualche modo ha anche delle citazioni, ha le citazioni del magico mondo di Amélie. Sì, infatti c'è Mauro da Brindisi che scrive: la pubblicità della pesca a grandi mali dalla scena del film Amélie. Effettivamente, sì, la citazione l'unica, c'è. Cioè, ormai sta colonna sonora ci è venuto il buco, come si direbbe a Roma. Cioè, c'è perché, venuto il buco, cioè, non sul l'avevo disco, mai sentita. Cioè, dai, ragazzi, cioè, siete creativi, ma cambiamo pure disco. Perché è vero no, che è stato... però effettivamente c'è questa cosa. C'è un po' di riscoperta del picco. Le piccole felicità, infatti io anche nell'articolo faccio riferimento, guarda caso, a Francesco Piccolo, che è questo scrittore, sì, autore, eccetera, che ha basato i suoi ultimi libri proprio sui momenti di felicità, no? E in qualche modo si rifà la campagna un po' si rifà a questo tipo di narrazione. Sì, sarebbe da fare uno spot invece con la signora che dice: metti la mascherina quella del treno. Ma infatti secondo me ci dovrà essere anche una parte un po' più ironica che alleggerisce un po' anche su questi aspettiamo su questi quelli, la marca, quell'altra, quella un po' concorrente del meteorite. Ok, sì, ecco, sì, quella, sì. Quell'altra che non diciamo. Questo è quella è la e col meteorite. Vediamo se fanno. Comunque questa non è per amore di precisione, perché poi ci scrivono, non è la colonna sonora quella lì di Amelia. Cos'è? Tutti insieme appassionatamente questo? Sì, sulla colonna sonora hanno fatto un bel lavoro, secondo me, perché My Favorite Things, che è appunto un pezzo che quindi si rifà al tema di tutti insieme appassionatamente. Gli amanti del jazz la riconosceranno per la versione di John Coltrane, i più giovani la riconosceranno perché è stata ripresa anche da Ariana Grande. Quindi insomma hanno fatto, quindi un l'unica che non ha riconosciuto è stato io. però effettivamente l'arrangiamento, complimenti, hai scelto un co-conduttore. però in effetti ragazzi, se io mi occupo di musica e tu di calcio, ci sarà un motivo. Sulla seconda non lo so se c'è un motivo, ma sulla prima sicuramente. No, però l'arrangiamento in effetti era un po' amelizzato, un po' yantiersenzezzato. Bellissima questa cosa del critico pubblicitario, anche perché ormai in rete questi spot sono stati condivisi tantissimo, perché poi le pubblicità, tra l'altro queste dirette da Gabriele Mainetti, lo chiamavano oggi Groboche, insomma, sì. non male. Dai, magari anche così questa voglia di ripartenza passa anche da queste cose. Però ecco, è anche un po' inquietante, no? Che molti, la prima cosa che abbiamo fatto per rassicurarci, abbiamo cercato di comprare qualcosa. Sì, è vero. Andare a fare la fila al grande magazzino. Sì, sì. Che c'è tra rassicurarci e quello che chiamano, com'è, revenge shopping. Sì, quindi sì. In qualche modo una rivincita. Ma è tenuto a casa, ma io questa cosa me la compro lo stesso. Sì. Sì. E me la compro al negozio, mica online, al negozio. Al negozio, io voglio andare a fare la fila. Io però ho comprato lo stereo, per esempio, non ce l'avevo. Finalmente uno stereo di legno, quella cosa, però dico il giorno dopo, appena sei andato a comprare uno stereo sotto casa, voglio lo stereo, basta coronavirus, lasciami, fammi sentire lo stereo. Vabbè. Allora, hai avuto anche la prova provata da Dario Ricci del revenge shopping. Grazie, a prestissimo, a Michele Moroni. Grazie Michele. A voi. Ciao. Bello anche perché davvero quando uno dice la pubblicità, la pubblicità è, che è parte della comunicazione, parla proprio di noi, e infatti sui social questo spot c'è dappertutto. Allora, siccome abbiamo poco tempo, cosa facciamo? Ti faccio sentire un pezzettino dei video di tendenza di questa settimana, delle coliche. Dai, sì, ascoltiamoci le coliche, anche perché sono tuoi conterranei, sono proprio super romanissimi come sapore. I mestieri nuovi dopo il Covid, ecco qua. Hanno parlato molto molto bene di sto posto. Molto carino, bellissimo. Signori, sì. Benvenuti. Salve. Posso lasciare la carta delle mucchine? Sì, grazie. Ma io non starei a spendere tanti soldi, pigliamo quella della casa, dai. Posso consigliarle una mucchina affinata in barrique francese per 3 anni, su lieviti di glicerina a 180 gradi? Chi assaggia? Lui, figuriamoci, io sono abituato con la mucchina del discount. Al naso risulta leggermente pungente, poco alcolico. Con note ossigenate, ha un sentore di corsia di chirurgia estetica, quasi a ricordare un dentista di Roma Nord. Ma no, vabbè, è vero, ricordate tipo i bicchierini, quelli per sciacquare la bocca. Questo è un completo che puoi usare in tantissime occasioni, come conference call, smart working, le dirette Instagram e chi più ne ha più ne metta. Quanto verrebbe tutto quanto? Allora, giacca, cravatta e camicia le posso fare 150 euro. E i pantaloni? Quali pantaloni? Quali pantaloni? Ormai il... Certo, abbiamo la tuta quando andava bene, perché... Ecco, non vogliamo sapere quando non andava bene, che cosa... Bravissimi, veramente le coliche sono, secondo me, tra i più divertenti, tra i più carini, molto molto carini. Non abbiamo tempo, ma questa settimana andatevi a vedere anche Quando devi scegliere che cosa guardare, The Jekyll, che magari recupereremo la prossima settimana, e Il corso di Nonna Fitness, di Casa Surace, con Nonna Rosetta, che fa fitness straordinaria. Che bello aver avuto Dario Ricci. Ti sentiamo domani? Domani in Olimpia alle 16:30, in replica alle 23:10. Parleremo proprio del caso George Floyd nello sport americano. Molto molto molto. Grazie. Bene, contentissimo di aver avuto accanto a me Dario Ricci, di aver lavorato anche questa settimana con una squadra fortissimi, cioè Alessandro Schirano in remoto, e noi facciamo proprio tutte le riunioni via WhatsApp che manco ve le immaginate. Edoardo Lavezzari qui in regia, guanti e mascherina anche per Valeria Bernardi. Allora, Edoardo Lavezzari che ha curato la parte dell'assistenza, e Valeria Bernardi che ha lavorato con i pirolini, no? Quelle cose che siamo, i cursoretti, i pirolini, però siamo andati in onda grazie a lei. Grazie ancora a Dario Ricci, grazie, di essere grazie. Stato con me. Noi ci risentiamo domani mattina con Radio Tube, l'intervista dopo il giornale radio delle 7, poi ancora sabato prossimo con Radio Tube. A prossimo sabato!